24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, cari ascoltatori, eccomi, buongiorno, sono le 7:21 minuti, sono tornato, sono qui, rivedo sempre Peter Bescapè in regia. Buongiorno, allora, eccoci, cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 anche sulla nostra pagina Facebook 24 mattino. Vi preannuncio che avremo alle 8:20 il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, per parlare ovviamente della tragedia, della strage che c'è stata 2 giorni fa. Parleremo poi invece di liberalizzazioni, molti quotidiani aprono su questo, avremo anche esponenti di 2 delle categorie più citate in questi giorni, i farmacisti, i tassisti, che sono grandissimi nostri ascoltatori. Forza, rappresentante di questa categoria considerata a torto a ragione una lobby potentissima che frena sulle liberalizzazioni. Siamo qua, parliamo anche di voi dalle 8:30. Ora, come al solito, iniziamo dalla lettura dei quotidiani. Questo giovedì 15 dicembre, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole oggi fa una prima parte dedicata totalmente alla manovra, famiglie e imprese, guida a tutte le novità. E poi c'è invece il dorso più sull'attualità generale, il titolo è Berlino riapre il fondo Salva Banche, quindi una struttura particolare oggi per il Sole 24 Ore. Vediamo i titoli degli altri quotidiani, manovra, i costi per le famiglie, così apre il Corriere della Sera. Ed eccola qui, la frenata sulle liberalizzazioni, le lobby fermano le liberalizzazioni, l'apertura di Repubblica. Il Messaggero, stop alle liberalizzazioni. Per il secolo XIX Monti si arrende alle lobby. L'Unità, i buchi neri del governo, tra questi la frenata proprio sui farmaci di fascia C, quel tema che riguarda le farmacie. Per Libero, Silvio ferma la rapina, lettera Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, Monti ci mette la faccia, i partiti invece no. Mentre La Stampa, manovra fiducia per blindarla. Il Giornale invece apre sulla vicenda di Mentana. Se ne va o no la ribellione di Mentana? E proprio qui da Mentana voglio partire per raccontare quella che appunto è una vicenda che abbiamo sentito anche in GR24. Ieri il direttore del TG della 7 Mentana ha detto: mi dimetto. La vicenda è legata a un contrasto con la rappresentanza sindacale della 7. Tutto nasce da un comunicato che Mentana non ha letto in un'edizione del TG, da qui una denuncia alla magistratura per comportamento antisindacale. Leggo dal Corriere della Sera, la 7, Mentana si dimette, poi apre però in serata nubi diradate, qualcuno ha sparso anche la voce, potrebbe andare al TG1 dove c'è Minzolini che è stato rimosso e il suo sostituto andrà in pensione a gennaio. Mentana però ha detto: non voglio andare al TG1, non mi interessa andare alla RAI assolutamente, se dovessi fare le valigie mi piacerebbe fare un'esperienza in un circuito giornalistico alternativo come sta facendo Michele Santoro. Vabbè, ma tutti i giornali dedicano, Repubblica addirittura 2 pagine, alla 7 scoppia il caso Mentana, tra l'altro con il titolo Telecom che dopo l'annuncio delle sue dimissioni poi pare parzialmente rientrate è crollato in borsa per qualche tempo. Visto che si parla di TV e visto che ho citato Minzolini, oggi l'ex direttore del TG1 rimosso ora parla a Libero, lo fa con una lunga intervista a Barbara Romano, è la prima volta che parla pubblicamente, a pagina 12. Vede un complotto, sono stato fatto fuori da un sicario. Minzolini che fa un'intera pagina di intervista, intanto dice: l'azienda non mi ha comunicato niente, io voglio continuare a fare questo mestiere. Poi sul suo telegiornale Minzolini dice: io non sono mai stato schierato, io ho dato notizie che altri hanno omesso, come tutta la storia del 41 bis. Beh, però, chiede Barbara Romano, lei ha totalmente censurato le donnine di Arcore. Il TG1 è un servizio pubblico, risponde Minzolini. Quell'inchiesta è stata un'operazione squisitamente politica. Io ho omesso il gossip e ho dato le notizie giudiziarie. Non ho fatto alcuna censura. Inscenare un processo di 1 anno e mezzo su ciò che succede sotto la lenzuola di Berlusconi lo trovo mortificante per questo paese, tanto più che questa campagna è partita il 25 aprile 2009, giorno del suo discorso all'Aquila. L'Aquila, quando lui era all'apice del consenso. È stato un pugno sotto la cintura. Poi parla ovviamente anche dell'inchiesta per le sue spese con la carta di credito. Dice: ma che erano tutti pranzi, mai una spesa di viaggio, un albergo a 6 stelle, stronzate, le definisce Minzolini. Non c'è alcuna accusa su questo punto da parte dell'autorità giudiziaria. E poi alla fine parla veramente di complotto per rimuoverlo. L'azione giudiziaria nei miei confronti nasce da una denuncia di Di Pietro. Valuti lei. Che vuol dire? Chiede Barbara Romano di Libero. Beh, guardi, nel film Apocalypse Now il colonnello Kurtz viene spedito nella giungla dove fa la guerra ai Vietcong col metodo dei Vietcong. E da chi viene ucciso? Da un sicario mandato dallo Stato Maggiore. Lei si sta riferendo ad Alessio Gorla, consigliere Rai in quota centrodestra, che ha votato contro di lei? Le ho detto che non mi interessano le miserie umane, risponde Minzolini. Ma tornando al colonnello Kurtz, la Rai è veramente come il delta del Mekong, dove domina il pensiero unico dell'informazione che non accetta il pluralismo. Pensi che mi hanno rimosso un'ora dopo la decisione del consiglio d'amministrazione, per cui non ho potuto neanche fare l'editoriale di saluto. E in Rai, un paradosso tutto italiano, spesso le vittime passano per carnefici e viceversa. Così parlò Augusto Minzolini, direttore del TG1, che dice: fatto fuori da un sicario a Libero, mentre Mentana rimane, non rimane, chi lo sa? 24 mattino. Allora, le 7:33 minuti, le novità della manovra che verrà votata in via definitiva entro domani, con la fiducia, pare, non si sa. In ogni caso, entro domani il voto finale della manovra. Pagano i fumatori, anche fumare costerà di più, la cosa non mi interessa particolarmente, ma sta di fatto che c'è la tassa anche sulle sigarette, nel senso che costeranno di più, e dunque questa è l'ultima novità trasversale, popolare se volete, che riguarda molti italiani. A pagare saranno i fumatori, così titola pagina 3 il quotidiano nazionale, anche l'unità pensionati aumenti anche nel 2013 e sigarette più care, e tutti lo mettono nei titoli perché effettivamente è una misura che coinvolge milioni e milioni di italiani. Ma intanto vediamo quali sono le novità. A questo il Sole 24 Ore dedica un'edizione speciale, se volete, perché tutto un primo dorso del Sole è dedicato proprio a tutte le novità della manovra che verrà approvata domani. 2 anni per stanare i furbi del condono, così titola pagina 3 del Sole, con Marco Mobile e Marco Rogari, che raccontano, eccole, le ultime novità, frutto anche degli emendamenti alla manovra. Cosa arriva? Il prolungamento di un anno per la caccia ai furbetti dei condoni fiscali, la rivalutazione delle pensioni fino a 1.400 euro anche per il 2013, la cosiddetta indicizzazione, un pacchetto riscossione, un'imposta strutturale sull'anonimato per chi ha scudato beni all'estero, l'aumento delle sigarette, eccolo qua, del prezzo delle sigarette per compensare gli sconti sulle patrimoniali del lusso, e la frenata sulle liberalizzazioni dei farmaci di fascia C. Ce l'hanno fatta, e di questo ci occuperemo tra poco. Intanto vi preannuncio che sul Sole avete anche tutte le novità, appunto, per quel che riguarda le pensioni, sempre come calcolare, quando si andrà in pensione, con quanto si andrà in pensione. Tutte le tabelle le trovate a pagina 6, così come trovate tutte le novità sugli sconti per il ripristino dell'ICI, che ora dovremmo chiamare ormai IMU, sulla prima casa. È stata confermata la detrazione di 200 euro per la prima casa e racconta Luigi Lovecchio a pagina 11 del Sole, con l'emendamento arrivato ieri arrivano anche i possibili sconti per gli immobili delle imprese e anche le detrazioni familiari nell'IMU sperimentale. Le detrazioni saranno pari a 50 euro per ciascun figlio che non abbia superato l'età di 26 anni, a condizione che dimori e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. Che cosa invece non si è riuscito a fare? con lo stupore del PD, Bersani si è detto stupefatto, le liberalizzazioni. E noi ne parleremo alle 8.30. C'erano due provvedimenti. Il primo che riguardava le farmacie, il secondo che non riguardava, già si diceva l'hanno scampata invece i tassisti, e noi avremo due rappresentanti di queste categorie, il presidente di Federfarma, un rappresentante dei tassisti di Roma, lì sono tante le sigle per la verità dei rappresentanti dei tassisti. Ma insomma, so che ci ascoltate, tanti tassisti sono amici, sono ascoltatori di Radio 24, allora vorremmo capire come mai quando si vogliono toccare le auto bianche non si riesce mai a fare nulla. Così come i farmaci, deregulation al palo, la norma era ormai prevista, era ormai passata, cioè quella di dare la possibilità di vendere i farmaci di fascia C, quelli con ricetta, dunque non rimborsabili dal sistema sanitario nazionale, anche alle parafarmacie. Federfarma, cioè l'associazione delle farmacie private, ha minacciato una serrata: lunedì faremo sciopero, si svendono i prodotti, come se nelle parafarmacie ci fosse un muratore a dare i farmaci, invece ci sono dei farmacisti iscritti all'ordine, tutto regolare. Sta di fatto che è tutto saltato, questa liberalizzazione dei farmaci di fascia C è saltata. Farmaci, deregulation al palo, così titola Il Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera vi dedica mezza pagina: il passo indietro sui farmaci liberalizzati. Maria Antonietta Calabrò scrive: più che un passo indietro è stato un vero e proprio stop, non ci sarà più la liberalizzazione dei farmaci di fascia C che su presentazione della ricetta medica bianca avrebbero potuto essere venduti anche nelle parafarmacie. Naturalmente anche nelle parafarmacie ci sarebbe stato l'obbligo di presentare la ricetta, anche nelle parafarmacie sarebbe stata obbligatoria la presenza per tutto l'orario di apertura di un farmacista laureato iscritto all'ordine per la verifica della ricetta. Ma anche se i paletti dei controlli e della farmacovigilanza sono stati ulteriormente alzati, non c'è stato nulla da fare. Quella delle farmacie in Italia è un muro solido quanto quello di Berlino, scrive il Corriere, e forse duro quanto quello che ancora divide in due Cipro, e anche Monti ci ha sbattuto contro. Secondo Il Secolo XIX c'è anche il nome del, tra virgolette, colpevole, il politico che avrebbe con un bianchetto, no? Quando si usa questa espressione, come per dire, ha sbianchettato l'emendamento. Intanto il titolo infatti è questo: nella notte del bianchetto vincono i farmacisti. Chi è il colpevole, secondo Il Secolo XIX, di aver fatto questo sbianchettamento della norma che liberalizzava la vendita dei farmaci? Gianfranco Conte del PDL, presidente della Commissione Finanze, con un tratto di penna ha cancellato, con il silenzio assenso del governo, gli emendamenti del Partito Democratico, su cui pure c'era un accordo di maggioranza, e contemporaneamente il grosso della svolta liberalizzatrice annunciata dal governo di Mario Monti, a cominciare proprio dalla concessione alle parafarmacie dei farmaci di fascia C. E insomma, scrive Il Secolo, nel braccio di ferro tra la lobby del farmaco e le parafarmacie hanno vinto i primi. L'altro tema è quello dei tassisti, eccolo qui. Intanto c'è, cari tassisti, un vostro sostenitore a spada tratta, Giampiero Mughini, che in prima pagina di Libero firma: io sto coi tassisti. Il titolo è: liberalizzazione, mi dispiace, io sto coi tassisti. Mughini lo dice anche un atto d'amore: io non ho la patente, viaggio sempre in taxi, e quindi ne ho presi più di migliaia, alcune migliaia nella mia vita. Ogni volta che monto su un taxi mi metto a chiacchierare col conducente: che turno fa, come vanno le cose rispetto al passato, chi gli fa da trovare la moglie a cena, eccetera eccetera, la politica eccetera. Di solito in taxi mi trovo benissimo in ogni senso. E dice Mughini: ciascun taxi ha la sua licenza, sono licenze costate, ciascuna una barca di denari, che sarebbero divenute dall'oggi al domani carta straccia ove l'accesso alla conduzione della vettura bianca fosse stato consentito, se non a tutti, a molti. Non capisco il perché di una guerra talmente diffusa contro i tassisti. Nella loro categoria esistono dei cialtroni? Ma certo, scrive Mughini, come in tutte le categorie. Esistono più cialtroni tra i tassisti o tra i giornalisti? Ai posteri l'ardua sentenza. Quindi Mughini difende a spada tratta i tassisti, mentre oggi sul Corriere della Sera c'è un'intera pagina a firma Goffredo Buccini, che ricapitola la storia di quanto sia stato difficile negli anni toccare quelli che per il Corriere in questa pagina appaiono dei privilegi, anti-liberalizzazione da parte dei tassisti, scioperi e pacchetti di voti, la resistenza dei tassisti, ecco la guerriglia delle auto bianche contro le liberalizzazioni. C'è per esempio un barricadero da sempre, Franco, da sempre barricadero, che dice a Buccini: le licenze sono la nostra liquidazione, lei la vorrebbe perdere la liquidazione? No, e manco noi. Ma racconta anche in passato di battaglie combattute, per esempio come quando nel 2003 i tassisti hanno affisso sui muri attorno a via Solferino, dove c'è la sede del Corriere della Sera, foto e profili di giornalisti ed editorialisti del Corriere colpevoli di chiedere servizi migliori per gli utenti, definendoli soggetti pericolosi. Sotto casa del professor Giavazzi passavano con la consegna di strombazzare giorno e notte. Oppure c'è la storia di un leader dei tassisti a Roma, Marinelli, che ora evita i riflettori, detto P38 da giovane. Non è difficile capire perché, scrive Buccini, continua a ostentare sul braccio il tatuaggio della decima MAS e dice: lo rivendico, ogni uomo deve tenere nel cuore Dio, patria e famiglia. Quanto alla decima, avevo 23 anni. Si ricorda la storia di suo nipote Alessandro Migliazza, ex pugile, che ammazzò per una corsa contesa un noleggiatore, simbolo della categoria più odiata dai tassisti. Non è un killer, spiegò Marinelli al nostro giornalista, gli ha dato solo un cazzotto, gliene avesse dati 10. Ovviamente, racconta Buccini, non è solo una storia violenta, ma certo la violenza non solo fisica attraversa anche questa storia. Quando il diessino Walter Tocci, vice sindaco di Rutelli, decise di portare ai tassisti la libertà nel senso inteso da Adam Smith, risultato 12 giorni di sciopero, minacce di morte a Tocci e un trattamento speciale per Rutelli e famiglia. Nel dice dice tra passeggero e autista si cominciò a diffondere la fola che il sindaco avesse interessi nella società che gestisce i parcometri. Menzogna totale, rimasta però conficcata nella testa di molti romani. Allora, sta di fatto che si riuscirà, se non si riuscirà, si riesce a liberalizzare questi settori, vedremo alle 8.30. Cosa invece hanno combinato mentre arriva la stretta sui vitalizi da gennaio? Attenzione, non è che abbandoniamo il tema della casta, della lotta alla casta, pare che arriva la stretta ai vitalizi. Io non voglio credere a quello che leggo sul Fatto Quotidiano, che ci dedica una pagina, ma in realtà anche altri quotidiani dedicano abbastanza a questo tema. Il titolo è Stipendi tecnici. Gli uomini di Monti si scrivono una norma ad hoc per conservare doppi compensi e rimborsi. No, io ripeto, non ci voglio credere. L'articolo di Caterina Perniconi, non ci voglio talmente credere che voglio prendermi una pausa e ascoltare le informazioni sul traffico, perché poi me lo voglio rileggere nel frattempo, poi ve lo rileggo, poi non ci crederemo tutti insieme, ma il tema è questo. Gli uomini di Monti, secondo il Fatto, si sono scritti una norma ad hoc per conservare doppi compensi e rimborsi. No, non sarà certamente vero. E allora, secondo il Fatto Quotidiano, Monti e i tecnici del governo Monti si sono scritti una norma ad personam, o meglio un comma ad hoc per preservare i loro diritti. È scritto a pagina 7. Il tema è questo: nella manovra è previsto che con un decreto del Presidente del Consiglio venga ridefinito il trattamento economico dei rapporti di lavoro dipendenti autonomi con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo per i dirigenti lo stipendio del Presidente di Cassazione. Nello stesso articolo è sancito che i dipendenti pubblici chiamati a funzioni direttive nei ministeri o nella pubblica amministrazione abbiano un'indennità pari al 25% del trattamento economico. Il risultato è questo, che prendono insomma uno stipendio e un quarto anziché due stipendi interi. Apriti cielo! Il doppio stipendio pubblico che sfuma così ha fatto infuriare i papaveri della pubblica amministrazione, che hanno infuocato i telefoni dei colleghi tecnici di governo per tutta la serata di martedì, scrive il Fatto Quotidiano. Per esempio ci sono il doppio stipendio pubblico che riguarderebbe ministri come Antonio Catricalà, magistrato e membro del governo, Corrado Clini, dirigente ministeriale e ora ministro dell'ambiente, Patroni Griffi, anche lui magistrato fuori ruolo, Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro e ora viceministro, che ha già annunciato peraltro di rinunciare al 70% della retribuzione. Sta di fatto che la norma sconvolgerebbe anche e coinvolgerebbe i sottosegretari, l'esercito di tecnici pubblici che riceve incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei ministeri. Insomma, il risultato di tutto queste lamentele è che, a quanto pare, è nata una soluzione ad personam per la categoria. Comma 3 dell'articolo 23 ter è stato previsto che col decreto del Presidente del Consiglio si possano prevedere delle deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni. Ovvero, scrive il Fatto, si possono concedere agli eletti di mantenere il doppio stipendio. Stipendi tecnici, questo è il titolo dell'articolo. Staremo a vedere. Intanto, ieri c'è stata bagarre al Senato. Prima era un po' la normalità. Adesso fa specie, no? Questa bagarre da parte dei leghisti, anche se è un buffone, se è un pagliaccio, urlato al presidente del Senato Schifani, che con qualche in un colloquio col Corriere della Sera molto breve dice: io ho già perdonato, ma mi auguro che arrivino le scuse. Sta di fatto che c'è stata bagarre e domani vedremo come va a finire questa vicenda della manovra. Noi avremo alle 8.20 anche, per parlare di cronaca, questa vicenda di Firenze, terribile, l'uccisione di due senegalesi, ma un terzo è ferito molto, in condizioni molto grave, da parte di questo militante o simpatizzante di Casa Pound, che poi si è tolto la vita. I semi dell'odio, così titola il Manifesto in prima pagina. Chiudete Casa Pound, questo è quello che chiede la comunità senegalese. Tra l'altro vi segnalo su questo diversi articoli di cronaca, vi segnalo due interviste, intanto di una persona, di un senegalese scampato alla mattanza: mi ha lasciato vivere ma ha ucciso mio fratello che era a fianco a me. Ndiaye Mor ha sbagliato strada venendo qui, eccolo, dice, c'era Diop, mio fratello, vicino a me, più in là Modu e Mustafa, tutti e quattro in piedi eravamo, non so perché mi abbia saltato. Arrivato a 3 metri da noi, quell'uomo che sembrava una persona normale ha tirato fuori la pistola e ha cominciato a sparare, così, pum, pum, pum, da sinistra verso destra. Non mi ha puntato, forse perché era un po' più distante, non lo so, ma quando mi sono rialzato mio fratello e Mudu erano già morti. Così racconta Ndiaye a Repubblica, un uomo di 1,90 m, 55 anni, lo racconta a pagina 17, dice: io non ho potuto fare niente, mi chiedo ancora perché, siamo qui da 10 anni, non abbiamo mai litigato con nessuno, noi senegalesi siamo persone buone. Si chiede anche, e non si dà una risposta a questa strage, quello che viene definito dalla Stampa nell'intervista di Grazia Longo come uno dei migliori amici di Gianluca Casseri, vale a dire Enrico Rulli, 53 anni, scrittore, editor, docente di scrittura creativa, che ha scritto con Casseri un libro e che dice lui si è ispirato a un film di Clint Eastwood, vale a dire Il caso Scorpio è tuo. Un film nel quale a un certo punto l'ispettore Callaghan, vale a dire Clint Eastwood, uccide un uomo di colore perché si fa giustizia da solo, stanco di una giustizia impotente. Ebbene, spara quest'uomo proprio con una 357 Magnum Smith & Wesson, la stessa arma usata da Gianluca per colpire quei poveri ragazzi senegalesi. Era un film che vedeva ossessivamente e l'ha visto anche in tutte le modi, in inglese, in versione originale, coi sottotitoli in italiano, l'ha visto anche la sera prima della tragedia. Ero passato lì la casa perché li avevo affittato e c'era un'assemblea di condominio a cui dovevo partecipare, sembrava tranquillo, abbiamo perfino fissato la data per la pulizia della caldaia. E come non bastasse ho invitato Gianluca a cena per sabato prossimo, ma lui non ha accettato, mi ha detto che ci avrebbe pensato e mi avrebbe fatto sapere. E insomma, questa la ora l'inquietudine anche del suo più caro amico, così viene definito dalla stampa. Vabbè, c'è spazio, forse 30 secondi, giusto per una chiusura simpatica, è questa. Cos'è il colmo per un leghista? Forse il colmo per un leghista è quello che ha fatto un consigliere, il responsabile della Lega a Cuveglio nel Varesotto, che ha dovuto dare le dimissioni ufficialmente per motivo di lavoro, ma in realtà che cosa ha fatto? Luca Molinari si chiama, ha affittato a un cittadino di origine turca un suo spazio commerciale, e questo cittadino turco vi sta per aprire un kebab. Ma come, per un leghista? I leghisti che si scagliano contro il kebab? La cosa sta facendo assai discutere il Carroccio, scrive il Corriere della Sera, perché Cuveglio, tra l'altro, è la sezione del fratello minore di Renzo Bossi, Roberto Libertà Bossi, e questo segretario leghista ha affittato a un kebabbaro il proprio spazio commerciale. Si è dovuto dimettere. Il giornale radio. Mattino. Siamo qui alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo partire da Firenze oggi per raccontare quella che è la situazione, una città sicuramente sconvolta dopo che due giorni fa due senegalesi, Mor Diop e Modou Samb, sono stati uccisi apparentemente senza motivo da Gianluca Casseri, che poi si è tolto la vita. Saluto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Senta, intanto una città che deve fare i conti con una cosa mai vista prima, questo agguato che come definirebbe lei, di stampo di follia o un agguato razzista? Beh, per me un agguato razzista è per definizione un agguato folle, per cui il movente razzista e xenofobo è chiaro. Questo signore ha sparato a 5 ragazzi senegalesi uccidendone 2, non è che ha sparato a caso. E quindi il movente xenofobo e razzista è evidente. Dopodiché, come diceva giustamente lei, per una città come Firenze, dove al massimo il problema sulla sicurezza di solito è capire quante multe fanno i vigili urbani, una vicenda del genere scuote profondamente, scuote l'identità di una città, perché come dire, la domanda profonda è come è possibile che sia potuto accadere anche qua. Senta, ma secondo lei ci sono le capacità da parte di Firenze di gestire una situazione del genere? Cioè, quello che si teme ora è che ci possa essere anche un'escalation, che ci possa essere qualcuno... Guardi, la vicenda del dolore continua a essere fortissimo. La preoccupazione sull'escalation io non l'ho mai avuta e non ce l'ho neanche in questo momento, perché la città ha reagito nel modo più bello possibile di fronte a un dramma di questo genere. La bellezza la metto innanzitutto come valore della comunità senegalese. Ieri abbiamo fatto un consiglio comunale aperto dove le parole più belle le ha detto Papa, il leader dei senegalesi. Sono delle televisioni a parlare di integrazione. Insomma, noi abbiamo fatto tutto ciò che ci sembra naturale e doveroso fare, ma la cosa più importante secondo me adesso è un investimento sulle scuole, cioè ben venga le attenzioni concrete, puntuali ai ragazzi della comunità senegalese feriti, ovviamente ci siamo fatto carico delle spese del rimpatrio delle salme e di tutto ciò che si fa in questi casi, ma la vera sfida adesso è una sfida, una gigantesca battaglia educativa e culturale, e per questo ieri nell'ultimo cittadino ho chiesto con forza che fossero le scuole innanzitutto a parlare di certi argomenti. A parlare di questo. Senta, c'è una richiesta specifica da parte della comunità senegalese a Roma, ma anche ovviamente in Toscana, che è quella di chiudere Casa Pound, vale a dire il centro sociale che frequentava anche, in questo caso nella sede di Pistoia, l'omicida. Lei che ne pensa? Andrebbe chiuso? Guardi, l'omicida non, per quello che risulta ad oggi, poi naturalmente io non faccio l'investigatore e non voglio stare a mettermi una casacca che non è la mia, saranno i magistrati a doverlo verificare, ma per quello che ci riguarda il killer è arrivato, ovviamente una mente totalmente malata e folle, e nella sua lucida follia ha ucciso, per quello che ci risulta, in solitaria, cioè non è che si è verificato quello che è accaduto altrove in altre città dove un gruppo di persone hanno realizzato un raid, magari in altre città è andata meglio dal punto di vista delle conseguenze, ma non erano creati, diciamo, cioè, si era creata una situazione per la quale tante persone insieme cercavano di, come dire, fare una sorta di rivolta sociale. Qui è il gesto isolato di una persona. Casa Pound Firenze ha immediatamente preso le distanze, spiegando, che, come dire, esprimendo il proprio cordoglio, ha chiesto un incontro alla comunità senegalese. Già nella giornata di ieri ci sono stati dei primi momenti di confronto. Io la dico così: da sindaco, quando Casa Pound festeggia e commemora i cecchini fascisti che nel giorno della liberazione, anziché venire alla manifestazione con tutto il comune, vanno per infatti loro a commemorare i cecchini fascisti, io esprimo tutta la mia rabbia e la mia disapprovazione e spiego che questi non sono i valori della mia città. Dico anche che attenzione a dare a chi frequenta, a tutti quelli che frequentano i centri sociali, che siano di destra o di sinistra, le responsabilità penali che appartengono ai singoli. Responsabilità no, però lei dice esprimo rabbia quando commemorano i cecchini fascisti, però il passo successivo, quello di dire chiudiamo, è una cosa che... Chiudere non dipende dalle amministrazioni comunali, io credo che dipende ovviamente dalle forze dell'ordine, si chiude quando ci sono dei reati. Quello che mi riguarda, quello che riguarda Firenze, lo sforzo di un sindaco e di un amministratore è quello di cercare in questi momenti, non di cercare il programma show, non di cercare la grande uscita che abbia un valore mediatico, è quello di cercare di, come dire, secondare con il dialogo una realtà che rischia altrimenti di scoppiare. Allora, dal mio punto di vista oggi, io prendo atto che Casa Pound ha scritto una lettera significativa alla comunità senegalese, spero che ci sia una forte indagine su tutto ciò che è accaduto intorno al killer, le dico che sono disgustato quando vedo 69 persone iscriversi alla pagina che inneggia il killer come eroe bianco, e credo che i nuovi mezzi di, diciamo, dell'ICT, dell'Information Communication Technology, di internet e dintorni, aiutino gli investigatori a evitare che questi killer solitari siano, come dire, si scoprono soltanto quando ammazza le persone. Ah sì, quello sì, andrebbero presi. Ma non è che dicendo adesso chiudiamo un centro sociale e abbiamo risposto ai problemi. I problemi non sono questi, i problemi è andare nelle scuole a spiegare che il contrario dell'integrazione non è, come pensano alcuni, all'identità. Il contrario dell'integrazione è la disintegrazione delle città, e che se noi non abbiamo il coraggio di fare alcune battaglie, a partire da quella banale, noi lo diciamo da tempo anche in sede, virgolette, più politica, la Leopoldi e dintorni, la battaglia per cui chi nasce in Italia è italiano, se noi non abbiamo il coraggio di fare questa battaglia, che peraltro è la stessa che c'è negli civilissimi Stati Uniti. Ma infatti ha anticipato su questo la mia domanda successiva, perché lei all'interno di questo discorso più ampio ha ribadito questa idea che già aveva detto la Leopolda. Chi nasce in Italia è italiano, ma proprio nel giorno in cui nasce, secondo lei, neanche dopo un percorso? Ma guardi, c'è lo ius, la grande distinzione è quella tra lo ius soli e lo ius sanguinis, vale a dire tra chi dice che l'italianità o comunque l'appartenenza a una nazione dipende dal sangue dei propri genitori e chi dice che dipende dal luogo dove sei nato. Ieri, durante questo bellissimo momento di condivisione che ha avuto Firenze, ripeto, anche molto toccante e emozionante, è arrivato a salutarmi alla fine Abdul, che ha 22 anni, è qui da 21, quindi è uno di quelli che non è nato in Italia, che ancora non ha la cittadinanza, parla con una C più strascicata di me, studia all'università, per la Fiorentina, non dico più di me perché non è facile, ma comunque è inserito nella comunità fiorentina appieno. Io credo che sia un'assurdità burocratica impedirgli di essere perché è stato un anno non in Italia. D'altra parte, chi nasce in Italia lo diventa automaticamente, come negli Stati Uniti, sarebbe una rivoluzione, sindaco. Sarebbe un gesto di normalità, cioè sarebbe un gesto per il quale ci allineeremo su tutti gli altri paesi, dopodiché agli altri paesi civili. Io credo che la sfida profonda, c'è uno spread forte oggi tra i bund tedeschi e i buoni del tesoro italiani, ma c'è uno spread ancora più forte nel nostro paese, che è quello tra l'esigenza culturale, educativa e la realtà. Noi abbiamo bisogno di far capire, i bambini di Firenze ieri, vedendo quello che è successo in Piazza Dalmazia, si sono resi conto che quel sangue non era della PlayStation, che quello non era un film. Ecco, credo che sia fondamentale poter insistere in questa fase che stiamo vivendo sul valore del respingere la paura del diverso. Cioè non è che se tu vieni da una storia diversa allora tu mi fai paura. Ecco, il tema dell'integrazione, e apprezzo che ci sia un ministro dell'integrazione e apprezzo che sia Andrea Riccardi, è una delle grandi sfide che noi abbiamo di fronte, però senza i proclami e gli spot mediatici, ma con un lavoro quotidiano. Un sindaco deve far questo, secondo me. Senta, sindaco, io nel ringraziarla, intanto è arrivato un messaggio proprio di Dieng Mamadou, senegalese, che ci scrive: fa male sentir dire che Firenze è razzista, solidarietà ai fiorentini che sono gente per bene. Credo che questo sia il messaggio. Firenze si è svegliata 18 anni fa, dopo la bomba messa da Totorrina sotto gli Uffizi, sì, colpita al cuore dalla mafia. Però nessuno allora disse che Firenze era una città mafiosa. Dicemmo, come era naturale, che Firenze era una città colpita dalla mafia. Ecco, due giorni fa quel killer non è che ha fatto diventare una città razzista, ha fatto diventare quella città colpita, vittima del razzismo. E lo dico perché, tra l'altro, proprio la comunità senegalese è la comunità che ha espresso un consigliere comunale, Papi, il leader dei senegalesi, era con noi in consiglio comunale, sì, certo, meglio, io ancora non c'ero, fino alla scorsa consigliatura, per dire che si può dire tutto di Firenze, una città polemica, litigiosa, divisa, un po' bottegaia, come cantava qualcuno, ma una città che ha nel cuore l'accoglienza e l'apertura. La ringrazio, sindaco, buona giornata, ovviamente, per essere stato con noi, il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, del Partito Democratico. Noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi parliamo allora di queste liberalizzazioni, o benedette liberalizzazioni. Cari farmacisti, parliamo di voi, ma non solo. Cari tassisti, siete tantissimi che ci ascoltate, lo so. Parliamo anche di voi, ma non solo. Siete riusciti, care lobbies, al plurale, all'inglese, a bloccare le liberalizzazioni, avete fermato Monti, eh? E bravi, tra poco. Allora, titolo del tema: liberalizzazioni. Svolgimento, i titoli dei giornali di oggi. Alcuni: è liberalizzazione indietro tutta sulla Stampa, liberalizzazione il passo indietro sui farmaci per il Corriere della Sera, liberalizzazione un carniere quasi vuoto sempre per il Corriere, e anche il Sole 24 Ore, i farmaci, deregulation al palo, insomma pare che le cosiddette presunte, a ragione o torto, lobby abbiano lavorato bene e abbiano fermato niente meno che il Premier Monti. Di questo vogliamo parlare, abbiamo chiamato due rappresentanti di quelle categorie che sono più citate, tra le più citate in questi giorni, vale a dire farmacisti e tassisti. Anna Rosa Racca è presidente di Federfarma, buongiorno presidente. Buongiorno. È la federazione dei titolari di farmacie, e saluto anche Claudio Gianandrea, che è il segretario regionale del Lazio di Federtaxi Cisal, buongiorno Gianandrea. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Allora, perché qui sarete ovviamente sotto attacco e lo sapete, intanto Anna Rosa Racca, la questione è questa: la manovra prevedeva la liberalizzazione, o meglio la possibilità di vendere in particolare i farmaci di fascia C, quelli su presentazione della ricetta medica bianca, quindi non rimborsabili, anche all'esterno delle farmacie, anche nelle cosiddette parafarmacie. Voi avevate minacciato addirittura una serrata su questo, perché? Perché questo provvedimento era assolutamente iniquo ed inaccettabile, perché a proposito di lobby, il mercato del farmaco non può essere dato in pasto alle lobby del carrello. I farmaci sono una cosa seria, sono una cosa di salute, e quindi noi siamo contenti che il governo ci abbia ripensato, abbia rifatto questo articolo, che comunque prevede, attenzione, l'ampliamento dei farmaci che si venderanno fuori dalla farmacia, però ha messo una tutela alla salute, perché comunque prevede una selezione da parte del Ministero della Salute e dell'AIFA di quei farmaci, sì, che devono comunque continuare ad essere dispensati. Siete contenti o avete fatto anche pressioni? Siete solo, avete assistito? Non è terminata, perché sì, avrà ancora, certo, un iter. Quindi diciamo, noi lo stiamo naturalmente la stiamo seguendo. Questa non era una liberalizzazione, questa era dare i farmaci alla grande distribuzione. Quindi questa era la cosa. Quindi questo voleva dire chiudere il servizio farmaceutico. In Italia ci sono 18.000 punti, e quindi cosa rimanevano alle farmacie? Rimanevano alle farmacie le ricette rosse. Però mi scusi presidente, sì, qui l'accusa è questa, cioè vendere nelle parafarmacie, non è che se io entro in una parafarmacia c'è un muratore che mi dà una religione. Guardi che le parafarmacie, cioè, c'è un farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti. È quello che dico io. Questi farmacisti che sono nelle parafarmacie devono, sì, entrare a diventare farmacie, cioè deve essere un sistema ancora più capillare sul territorio della farmacia. Ma non bisogna chiudere le farmacie per far guadagnare la grande distribuzione. Cioè, con la questione del farmaco. Allora noi avevamo dato delle grandi proposte di liberalizzazione che portavano sì posti di lavoro, che portavano a maggiore aperture, che aumentavano gli orari. Questa è una liberalizzazione, non è una liberalizzazione chiudere 18.000 farmacie, licenziare della gente e fare e spostare il business, se business è, all'interno della grande distribuzione. Questa non è una liberalizzazione. Allora, in questa manovra c'era qualcuno che chiudeva e c'era qualcuno che ci guadagnava, tant'è vero che loro l'avevano detto. Il presidente della Coop era già entusiasta e aveva detto: mi arriveranno 50 milioni di euro. Beh sì, perché questa è una questione, pare che il mercato sia valutato 3 miliardi però, ma poi torneremo tra un attimo. Beh, da lei 3 c'è miliardi anche... 70 sono dell'industria farmaceutica, naturalmente sì. Poi c'è la distribuzione. Vabbè, il mercato in generale. C'è da dire che però Catricalà, quando non era parte del governo ma faceva parte dell'antitrust, ha detto anche che i farmaci aperti al mercato delle parafarmacie fanno registrare un calo del costo dell'8-9%. Ma torniamo su questo tema, prima mi faccio andare da un altro rappresentante di quelle lobby che vengono, le piace Claudio Gianandrea, le piace questa? Un'espressione, guardi, straordinaria. Lobby. È subito vista come una cosa negativa, lobby, quando uno dice lobby. Guarda che io so che i tassisti ci ascoltano tantissimo, Radio 24, ci seguono. Anch'io, tra l'altro. Questo però non esimerà dal dirmi che siete una lobby, secondo molti, chiusa alle licenze, alle liberalizzazioni. Vi tenete stretta questa, per carità, che avete pagato caro questa licenza. Perché? Perché? Guardi, io le dico con la massima tranquillità che francamente non mi sento il rappresentante di una potentissima lobby. Stavo analizzando l'altro giorno gli effetti del decreto Salva Italia per ciò che riguarda la riforma del sistema pensionistico sul sottoscritto. Io dovrò lavorare altri 8 anni rispetto al sistema precedente, andrò in pensione a 70 anni e mezzo, sono salito sul mio taxi a 24 anni, 46 anni e mezzo di guida su questa vettura, insomma, in una città caotica come Roma. E questo sì, però l'accusa è che, entrare altri, cioè, mi perdoni, ecco, io volevo tranquillamente interloquire con lei. Questa era una considerazione per dirle, insomma, che se fossimo rappresentanti di lobby potenti probabilmente non riusciremmo a ottenere di più. Allora, noi abbiamo una direttiva soprannominata Bolkestein, che un paio di anni fa ha liberalizzato tutta quanta una serie di attività economiche a livello comunitario, e da questa direttiva sono esclusi niente poco di meno che i servizi taxi. Forse certo, siamo anche una certo. potente lobby a livello comunitario. Per quale ragione diciamo sono esclusi anche i servizi taxi? Per un motivo molto semplice, perché noi siamo comunque un servizio che è soggetto ad un sistema di regolamentazione molto rigida. Noi abbiamo una tariffa amministrata che è decisa da un ente terzo, nel caso specifico i comuni o gli enti locali in generale. Abbiamo l'obbligo di effettuare la prestazione di servizio verso chiunque ci chiede appunto un servizio, e abbiamo anche l'obbligo di rivolgersi ad un'utenza indifferenziata, che tradotto significa non effettuare, non fidelizzare una clientela, tra virgolette, anche se poi l'espressione clientela a me non piace, dato che questo non è un mercato, insomma, ma è un servizio che punta, come dire, a garantire un diritto essenziale, che è il diritto alla mobilità. Ma perché non è un mercato, lei dice? Dovrebbe però rispondere alla logica un po' più di mercato. Risponde ad una logica di mercato prettamente. Le faccio un banalissimo esempio: io lavoro con una tariffa amministrata che è ferma da 5 anni. In questi 5 anni praticamente attraverso il costo del carburante ho finanziato il FUS, il fondo unico per lo spettacolo, attraverso le accise aggiuntive ovviamente, adesso il risanamento dei conti, il terremoto per l'Aquila, tutta quanta come tutti gli italiani, sì, più nemmeno, ma immagino che ovviamente sul mio lavoro e sul mio reddito questo peso ha avuto un'incidenza maggiore. Eppure io, nonostante questa crescita del costo dei carburanti, ovviamente lavoro ancora con la stessa identica tariffa, nel senso che la questione, queste sono rivendicazioni giuste che lei, se vuole, può fare, insomma, col comune l'accusa è dire che siete una categoria chiusa, cioè non aperta ad altri. Non sto appunto tentando di spiegare che se si vogliono una serie di garanzie per l'utenza, ovviamente qualche piccola garanzia deve essere concessa anche agli operatori del settore. Tra l'altro faccio presente che attraverso le cosiddette insulare di Bersani, questo settore ha contribuito anche in termini di offerta poi di servizio e di apertura anche a nuovi operatori in maniera consistente. A Roma, ad esempio, sono state rilasciate 2000 nuove autorizzazioni che comportano un incremento dell'offerta di circa il 33-34%. Quindi Quindi voglio dire, in tutta onestà, credo che sia giusto dare, ma sia anche un'apertura giusto. C'è stata. No, no, si fermi qui, che dobbiamo dare le informazioni sul traffico, poi voglio tornare dai farmacisti, perché ci sono delle accuse, ovviamente anche i nostri ascoltatori, che dicono per esempio Anna Rosa Racca, allora vendete solo farmaci, invece smettete di vendere farmacie come dei veri e propri supermercati in cui si vende di tutto. E poi c'è un'accusa invece specifica ai tassisti, tantissimi messaggi che ci arrivano dai noleggiatori con conducente, che dicono i tassisti ci impediscono di lavorare, questo in estrema sintesi, tra un attimo. Allora, le 8:48 minuti, 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Ci ha chiamato Miriam da Ancona, buongiorno, che leggo essere una titolare di parafarmacia? Sì, sì, esatto. Dica. Intanto buongiorno, io sono la titolare di parafarmacia, mi sono laureata, sono iscritta all'ordine come un titolare di farmacia. Pago la cassa farmacistica. Beh certo, come tutte è una lobby, visto che qua c'è la presidente di Federfarma. È una lobby perché in realtà impedisce ai giovani preparati di raggiungere l'eccellenza. In realtà questo è un qualcosa a ribasso, no? Perché garantisce solo chi è già nel mercato, ma non nel mercato, chi è già nella professione, perché garantisce le persone che già hanno la farmacia e i figli, che ancora neanche sono nati dei farmacisti, avere una farmacia, mentre chi è già preparato, anche un 35enne preparato, non può avere una farmacia, perché i concorsi sono chiusi, sono fatti solamente in determinati modi. Quindi secondo me l'unico modo era una minima liberalizzazione, e anche per voi consumatori, voi che andate a comprare i farmaci, il prezzo. Poter avere una possibilità di avere uno sconto. No, ma sono le due accuse che ha fatto. Stia con noi Miriam, presidente Racca, ha sentito le due accuse, mercato chiuso e lice, allora, quindi, e poi i prezzi dei farmaci. Auguro alla mia collega di avere una farmacia. Io non ero figlia di farmacista assolutamente, ho fatto un concorso, ho vinto il concorso, quindi questo è quello che deve essere fatto, perché abbiamo anche 60.000 farmacisti, 60.000 persone che lavorano all'interno delle nostre farmacie, quindi questa è una liberalizzazione di un servizio farmaceutico più forte sul territorio. Sì. Per quanto riguarda la questione dei prezzi, io volevo veramente chiarirla, lo dirò molto semplicemente: quando lo Stato implica dei prezzi fissi, allora il farmacista non può fare sconti. Nel momento in cui lo Stato liberalizza il prezzo, allora chiaramente lo sconto viene fatto in farmacia, nella parafarmacia, nella grande distribuzione. Ma perché Catricalà dice che l'8-9% di risparmio se si apre le parafarmacie? Se l'ha inventato questo? No, perché viene liberalizzato il prezzo di quei farmaci che andranno fuori, sarà liberalizzato, e allora ci saranno risparmi, capito? Adesso per ora il prezzo è assolutamente fisso. Ricordiamoci che comunque i prezzi sono molto diminuiti, noi abbiamo avuto 36 provvedimenti di diminuzione dei prezzi negli ultimi anni, non ultimo quello di qualche mese fa, che ha diminuito i prezzi dei farmaci del 40%. Quindi lei, insomma, respinge tutte le accuse, se si vuole. No, beh, la verità. No, ma senta, questo onorevole... Dire che questa scelta sarebbe stata una scelta contro l'Europa, perché anche il signore prima ha ricordato la Bolkestein, cioè l'Europa si era proprio mossa, non soltanto il PGEU ma anche i parlamentari europei, e avevano detto di fare attenzione al governo, perché in nessun Stato europeo la ricetta è fuori dalla Presidente farmacia. Racca, allora lei che ne pensa di tutti i giornali, l'avrà letti anche lei, che parlano di lobby che si è mossa per fermare questa liberalizzazione? Io non mi considero una lobby, sono una farmacista che, come tutti i miei colleghi, ogni giorno alza la propria saracinesca, la propria farmacia e la abbassa, e spesso non la abbassa neanche di notte, di giorno, da sabato alla domenica. Mi farò il turno anche a Natale. Io dico che sul farmaco dobbiamo dare una protezione, perché non è merce ma è salute, e quindi certamente non possiamo darlo in pasto alle grandi multinazionali e a quelle che si chiamano cattedrali del consumismo. Non voleva i grandi supermercati, dove però c'è un angolo di parafarmacia con un farmacista, ma questo, insomma, lei dice non sta bene. Giulio da Roma, buongiorno. Ecco, Giulio, leggo, ci hanno chiamato in tantissimi, conducente di auto a noleggio, è così? Leggo. Buongiorno a tutti. Sì, innanzitutto voglio ringraziarvi, perché ci state dando un pochino di voce. Faccia quella domanda. Io faccio presto. No, non c'è una domanda, mi perdoni. E qui il discorso è molto semplice. Lì c'è un rappresentante dei taxi, ma non c'è un rappresentante degli NCC. E siamo inseriti nella stessa legge. E siamo inseriti nella stessa legge. Solo tutto ciò che capita ai taxi, poi di riflesso ricade su di noi. Allora, io sono molto contento di quello che ha detto prima il responsabile dei taxi, chiarendo il motivo per cui loro non sono inseriti nelle liberalizzazioni, perché comunque si rivolgono a un'utenza indifferenziata, perché sono soggetti, sì, a delle tariffe concordate con i comuni. Hanno il colore della macchina ma lei che vuol dire per la sua categoria? Io voglio dire semplicemente questo, che il noleggio con conducente vuole essere liberalizzato, perché il noleggio con conducente è in realtà un'impresa che fa economia, che fa occupazione soprattutto, e in questo modo siamo ingessati e piano piano stiamo morendo. 85.000 imprese in Italia stanno morendo, anche e per questo decreto salva Italia, ma certamente non salva noleggio con conducente, che porterà completamente alla chiusura. Perfetto. Di questa attività. È stato chiarissimo. No, mi lasci dare, perché ho 30 secondi per chiudere. Gian Andrea, su questo vuole replicare, perché guardi che molti ci hanno scritto che i tassisti e i noleggiatori con conducente dicono: ecco, i tassisti fanno i loro interessi, ma invece noi nessuno ne parla. Pronto? Sì, Gian Andrea. Stavo dicendo, guardi, che anche il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico, anche quello è un servizio comunque le cui autorizzazioni vengono rilasciate attraverso dei bandi di concorso pubblico, anche quello è un servizio soggetto ad una serie di vincoli e regole ben precise. Poi, insomma, vorrei ricordare al mio interlocutore che purtroppo, o per fortuna, insomma, che sono, come si suol dire, esistono una serie di regole che puntualmente molti operatori, non dico tutti, ma molti operatori del servizio NCC non rispettano. E tutto ciò per tutti, come per i tassisti, come per i giornalisti, come per gli idraulici. Mi scusi, però ad esempio faccio un banalissimo esempio. Nel mio palazzo abita un signore che ha un'autorizzazione che è stata rilasciata da un lontano comune della Puglia. Ogni volta che effettua un servizio dovrebbe partire dal territorio del comune, certo, che gli ha rilasciato l'autorizzazione, e vuoto, poi ritornare. Questo invece... signore parcheggia sostanzialmente l'auto nello stesso identico garage condominiale in quello parcheggio io. Quindi è una cosa che è fuori dal mondo. Io trovo che sia assurdo comunque che in questo paese alla fine vengano premiati i furbi e i disonesti. Però su qua si deve fermare, perché io devo chiudere, altrimenti sforiamo. Torneremo su questo tema. Grazie a Anna Rosa Racca, Claudio Gianandrea. Il tema delle liberalizzazioni continua sulla pagina Facebook 24 Mattino, e ci troviamo domani.